ITC Teatro a San Lazzaro, sabato 14 gennaio 2023, ovviamente alle ore 21 con la compagnia Licia la Nera, che è qua al telefono con noi, l'omonima compagnia di una delle protagoniste, in quanto l'adattamento e regia è curato appunto da Licia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, eccoci qua. Perché questo autore avete voluto portare sul palcoscenico? Allora, va bene, Bulgakov è proprio un mio amore antico, cioè, io credo che Il Maestro e Margherita sia il romanzo più bello che sia mai stato scritto al mondo, insomma io ci sono molto affezionata, e anche i suoi testi, diciamo, considerati minori, non per valore, ma magari perché sono meno conosciuti, la biografia di Molière o Uova Fatali, come Cuore di Cane, insomma per me sono dei testi magnifici. Dunque mi trovavo appunto a Radio 3 per l'anniversario della rivoluzione russa, insomma c'erano una serie di eventi legati alla letteratura russa, e mi chiesero a Radio 3 se avevo qualcosa da proporre, e io avevo riletto da poco per l'ennesima volta Cuore di Cane, e mi sembrava un testo, seppur nella sua forma di romanzo, molto molto ben predisposto ad essere detto, e dunque ho detto va bene, lavoriamo su questo. All'inizio doveva essere soltanto una serata per Radio 3 e poi è diventato uno spettacolo, ecco. Hai citato un altro capolavoro che è uno dei miei preferiti di Bulgakov, che è Uova Fatali. Ma ok, questo, sì, bellissimo. Anche l'eterogeneità bellissimo che ha questo autore, la capacità di trattare diversi temi. E a parte che noi obblighiamo la lettura, non consigliamo la lettura. Sì, di sono d'accordo. Sì, obblighiamo alla lettura i nostri spettatori. Sento un grande entusiasmo. Sento un grande entusiasmo, appunto. L'urgenza appunto di rivelare questo pensiero, questa idea che comprende diverse argomentazioni, e perché vogliamo obbligarlo e perché, insomma, nella modalità in cui è stato portato in scena, anche perché la trasposizione è sempre qualcosa di particolare, Licia. Sì. Allora, io questo che dicevi di Bulgakov, che ha una personalità molteplice, perché lui era un letterato ma era anche un medico, quindi questo suo mix di scienza e letteratura, da questo suo mix vengono fuori questi testi come Uova Fatali, ma anche buona parte di appunto Cuore di Cane, che parla di un esperimento che il professore fa. Tra l'altro Bulgakov si ispirava proprio a suo zio, che era un noto medico a Mosca, e dunque ci sono due macro argomenti per me molto intriganti, che sono: uno, quello dell'aspetto della giovinezza, dell'estetica, perché appunto il professor Preobrazhensky nel suo studio impianta alcuni pezzi, alcuni organi interni di animale dentro il corpo umano per farlo ringiovanire, insomma questa è la storia. Allora, questa carrellata di personaggi che io ho riportato poi nel testo, perché ovviamente nell'adattamento ho dovuto fare una scelta, una falciatura, una scelta di alcune parti, viene fuori proprio questo esasperato bisogno di giovinezza, di bellezza a tutti i costi, di sempiterna giovinezza, un'ossessione, ed è incredibile come appunto Bulgakov ne parlava moltissimi anni fa, e oggi, insomma, come dire, noi mangiamo pane botulino a gogo proprio, insomma questa ossessione per la giovinezza è diventata la nostra ossessione, la nostra malattia. Dopodiché il discorso passa in un argomento che ancora di più mi sta a cuore, appunto Bulgakov mette sotto questa metafora della costruzione di quest'uomo costruito in laboratorio, questo cane che diventa uomo, quest'uomo nuovo di cui Stalin parlava, e questa cosa dell'uomo nuovo l'abbiamo sentita e risentita anche a volte, diciamo, dai nostri politici, quasi si volesse costruire un nuovo uomo che non venisse dalla politica storicamente, ma che potesse in qualche modo salvare la politica. Io quando ho scritto questo testo, quando ho messo in scena questo testo, c'era l'esplosione dei 5 Stelle e di tutto, come dire, una demonizzazione della politica e anche della cultura politica. Questo uomo nuovo, questo uomo cane, questo pallino, è sostanzialmente uno abbastanza ignorante che si incazza con tutti e dice non sono d'accordo con nessuno, che potrebbe gridare tutti a casa, quello che è un po', diciamo, un detto molto sentito e risentito, e che in qualche modo però di fatto letto, non ha una conoscenza della materia politica e quindi parla per sentito dire. Ora, tutto questo, al di là dei partiti, il discorso sui partiti che mi interessa relativamente, anzi non mi interessa affatto, perché appunto sarebbe se no un discorso a breve termine, fa un grande ragionamento invece sulla fine dell'ideologia, che è un po' quello che caratterizza la nostra epoca. Cioè il fatto che l'ideologia, come dire, la lotta per un'idea è, come dire, sepolta in nome di altre questioni che possono essere anche legate probabilmente all'estetica o all'economia e a, diciamo, una sottospecie di finto benessere estetico e commerciale a cui tutti siamo ormai totalmente, di cui tutti siamo totalmente schiavi. È un apparire piuttosto che appunto l'essere. Esatto. Tra le tante tematiche da approfondire, da cuore. Ti dirò che man mano che questo spettacolo va avanti, poi io sono una fissata con il repertorio, insomma uno dei caposaldi proprio delle idee della mia compagnia, il motivo per cui faccio la compagnia è proprio perché mi piace mantenere il repertorio in piedi. Io tutti gli spettacoli che ho fatto, tranne insomma quelli più vecchi che facevano parte della compagine Fibre Parallele, però tutti gli spettacoli di Compagnia Cialanera sono tutti sempre in piedi, è come il repertorio, man mano che vai avanti cambiano con te, ma la cosa bella è che per esempio questo spettacolo oggi diventa ancora più forte, ti suona ancora più forte nelle orecchie del 2018 di quando l'ho fatto, è sempre più presente e quindi questo è molto molto affascinante, ecco. Vabbè, i grandi classici del resto sono, come dire, immortali. Io dico tutti i tempi, perché ovunque si tratti vi sono argomentazioni che corrispondono alle epoche. Concludiamo con una realtà che è anche in collaborazione molto vicina a questa produzione, cioè la parte musicale. Sì. Ce ne puoi parlare? Sì, io da un po' di anni lavoro con Tommaso Danisi in arte Cuzzerti, che è un musicista che lavora insomma con l'elettronica, con alcuni strumenti, ma nessuno, come dire, di quelli canonici. Insomma, lo strumento più canonico che ha è la pianola piccolina o qualche la diamonica, quella che si usava a scuola. Per il resto lui lavora con il computer, ma anche con tantissimi oggetti che lui stesso costruisce, microfoni a contatto che lui ricava da cialde di caffè in cui mette delle placche, poi io lo metto addosso e risuona, oppure barattolo dei biscotti e lo fa suonare in un'altra maniera, una sega da falegname, insomma lui c'ha tutti questi suoi strumenti. E con Tommaso in questo spettacolo abbiamo raggiunto, perché insomma avevamo già lavorato assieme altre volte, un processo proprio di compenetrazione totale, cioè non è che io dico il testo è sotto, c'è il sottofondo musicale, no. Tommaso fa proprio una partitura sonora ben precisa che a tratti sfiora proprio il radiodramma, perché è come se si sentissero i suoni, per esempio nell'operazione che viene fatta, che viene descritta dettagliatamente da Bulgakov quando Pallino diventa da cane a uomo, lui proprio, come dire, traduce il suono della sega taglia il cranio, il suono del bisturi, il suono delle forbici, insomma crea proprio una sinestesia fortissima, ma allo stesso tempo in altri momenti proprio diventa, come dire, un supporto fortissimo che dà corpo alla narrazione. Infatti io comunque recito al microfono, con un microfono tra l'altro in mano, gelato, perché proprio è sempre un mix tra uno spettacolo e un concerto. Infatti è uno spettacolo insomma prevalentemente sonoro, forse anche perché risente di questa sua nascita in radio, e quindi insomma ecco, infatti stiamo decidendo di fare proprio l'incisione ultimamente per farne insomma un disco, ecco, perché insomma è un lavoro veramente che puoi sentire anche ad occhi chiusi, ecco, puoi vedere, cioè ascoltare soltanto. Certo, anzi è un'ottima idea, e oltretutto il freddo del microfono che hai citato me con l'onomatopeica dei rumori, del noise musicale, ha ricordato proprio il freddo anche dell'oggetto che adopera il chirurgo, che è un oggetto metallico, un oggetto freddo. Ok, potremmo parlarne per delle ore. Io intanto invito le ascoltatrici e gli ascoltatori a ITC Teatro a San Lazzaro per sabato 14 gennaio alle ore 21. Grazie Licia per questa nostra chiacchierata. Grazie. Ricordo Cuori di cane di Bulgakov a San Lazzaro per sabato 14. Buona giornata. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao.